Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your soul. For your brain. This is Oxygen. Benvenuto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, la trasmissione di musica elettronica che va in onda ogni sabato sera dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech. E ho aperto con una nuova release dell'etichetta Niege Tapes, un'etichetta di Kampala. Quindi parliamo di una produzione africana che si muove fra musica elettronica sperimentale e musica tradizionale folcloristica africana. Quello che abbiamo ascoltato era l'album di Akira Umeda con Metal Prayers, che si chiama Clube da Mariposa Morbida. E andiamo avanti con le novità. Si chiama Tranquilizer, il nuovo lavoro di Daniel Lopatin, ovvero 113.never. Sono già ascoltabili, sono già in circolazione 4 tracce che sono di fatto sulle piattaforme un extended play virtuale. Queste 4 tracce ne ascoltiamo 2. 113.never. Thank you. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. E questo era 11 Tricks Point Never, Daniel Lopatin, due dei quattro brani che anticipano il nuovo lavoro di quello che è probabilmente uno degli artisti più interessanti della scena elettronica sperimentale degli ultimi anni. Ma andiamo avanti, ci spostiamo questa volta in Italia con un artista che proviene dal nostro meridione d'Italia, che si fa chiamare Mai, che pubblica una colonna sonora che vede anche un paio di brani, direi ad occhio, che erano già stati pubblicati in precedenza. One Rose is the Silence of My Master, il titolo di questa soundtrack, dal quale ascoltiamo due brani. Uno, il primo già sotto la mia voce, si intitola Sing. Thank you.

dove abbiamo ascoltato un brano di Nieg Nieg Tapes, questa volta l'etichetta sempre ugandese di Kampala, Hakuna Kulala, che propone un lavoro intitolato Rococo Ruin, firmato da Authentically Plastic.

me cha kutte ta cha wede muziki so somora wa makona burundi tontamera tumanya le butabanye blaza wange twe kwa ko mchikiri tasula weekendi yele bale bagira mu benz la fete tukira mu posh bale je tukumba na boss bila sigura bali awongo ya twala ku counter bo kwa muno rwana nga tukola bomsa security guru guru guna muziki fundo kololo uri wa buka wa guru bala ya ka na bu guru haya haya guna mu twali no ku kona go ku ba go weka muziki so somora mu chi ura fe na twe kona bo tukona bo tibia bo twe nyenya bo tukona bo tibia bo twe nyenya guna mu twali no ku kona go ku ba go weka This is Oxygen. Kawa, zentambusa sanyu kamwenyo kanoke mkulembeza Wesiba mubize anonye chida konze seboa Party kick stara, kela with the deck master Move fast and deliver like a transporter Tunulamu maso tunyumye zesetia Kanudenga tunuza wala jengenda Wenalimbi suri ya siwe viringa wenda bao sanyu kanga po akate kona nota kejusa Akumala ke mirembe teka kositapula Teka kukadia Now listen, whip him sounds that lifts your legs off your ground Shake your hip but don't break your neck off your shoulder Don't understand, get up and start over That's when you find that we are on life controller Tukora na yoro tarol wa kusiweza Yuko solo na kubyevyo wa mashibara Ulwe kulo kora kumura Hey, echita koku wa kujagana Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for yourself, this is Oxygen. E questo è sempre Oxygen, ci spostiamo dalle produzioni africane verso atmosfere decisamente più scure e notturne con il nuovo lavoro di Ranz Levin che si chiama Inner Weather su Nocturnal Rainbow Recordings. Thank you.

You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Atmosfere sospese dal tono quasi sinfonico per Hans Levin in questo lavoro che si intitola Inner Weather, ma ci spostiamo di genere e di atmosfere con il ritorno di un progetto che abbiamo avuto occasione di conoscere nel corso degli anni 90 per produzioni in bilico fra trip hop, lounge e atmosfere molto morbide che avevano caratterizzato una serie di dischi, alcuni dei quali erano stati pubblicati su Reflex Records, se non ricordo male. Loro si chiamano Global Goon. Il titolo dell'album è Grow Your Hound Goon Garden, Global Goon. For your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Adam? Yes, madam. Thank you.